America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, beh, è partito a Washington, Select USA. Questa mattina, direi, è partito. Partirà fra pochissimo, ci saranno le prime riunioni assembleari. Select USA, che cos'è? Beh, è questo vertice, questo summit organizzato dal governo americano per attirare investimenti stranieri negli Stati Uniti. E c'è una cosa che mi colpisce in questo, cioè il fatto che, nonostante l'America stia crescendo, ha creato oltre 10 milioni di posti di lavoro, tasso di disoccupazione al 5,3-5,4% e così via, così via, non si ferma. L'amministrazione continua a trovare spunti per poter sostenere, puntellare e magari aumentare la crescita. Quali sono questi spunti? Beh, Barack Obama continua a annunciare nuovi centri di eccellenza che mettono insieme università, imprenditori e governo federale per sfruttare le specialità locali. Questi centri faranno parte di quel portafoglio di offerte che gli Stati Uniti così presenteranno a migliaia di aziende straniere che da 60 paesi sono arrivate in America per capire come si può investire. E che cosa succede? Arrivano i governatori degli stati, arrivano i sindaci, arrivano gli esperti economici, e parlerà Barack Obama, ci sarà una mobilitazione del segretario di Stato John Kerry e di quello al commercio, la Pritzker. Ebbene, ci sono 41 aziende che arrivano qui a Washington, 41 aziende italiane, alcune grandi, alcune medie, alcune sono delle banche o sono dei consulenti o degli avvocati in rappresentanza di aziende molto piccole. E vi do una notizia, perché la delegazione italiana di 41 aziende è la più folta, la più importante a livello europeo. Ecco, questa cosa è stata possibile grazie anche a un lavoro di triangolo fra l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, il presidente Riccardo Monti dell'ICE, il Dipartimento al Commercio a Washington e l'ambasciata americana a Roma, che faceva un po' da filtro per le varie iniziative del Dipartimento di Stato e così via, così via. Ecco, per poter approfondire questo tema, perché è una questione secondo me molto importante anche di mentalità, ho con me ai microfoni di America 24 Riccardo Monti, presidente dell'ICE, che è a Washington. Buongiorno Monti. Salve a tutti. Eccoci. Allora, intanto immagino ci sia un'atmosfera, come dire, frizzante, perché ci sono migliaia di persone, tutte che vogliono investire, quelli che cercano di attirarli e così via, così via. Come dire, deve esserci un po' di buzz, come si dice, o no? Decisamente c'è un'atmosfera molto frizzante, c'è grande attesa per questo grande incontro. Ecco, come avete strutturato questo accordo col Dipartimento al Commercio? La premessa da fare è che un'agenzia moderna per l'internazionalizzazione, come noi siamo e vogliamo essere sempre di più, deve essere anche molto attiva sulla cosiddetta internazionalizzazione in uscita, quindi accompagnare le aziende che vogliono crescere all'estero. Gli Stati Uniti in questo momento sono un mercato straordinariamente interessante per, diciamo, una serie di fattori, a cominciare dal fatto che sono un mercato nazionale gigantesco, l'energia costa molto poco, gli stati fanno a gara tra di loro per chi rende la vita più agevole per gli investitori e gli operatori, tanto è vero che negli ultimi 10 anni l'investimento italiano è decuplicato, quindi in anni molto duri per le aziende italiane, in cui la finanza è stata sicuramente non abbondante, le aziende italiane hanno fatto un grande sforzo. Scusi, ti faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché qualcuno in Italia, mi riferisco per esempio agli investimenti di Fiat in Chrysler, eccetera, soprattutto fra i sindacati, dice: ah, no, investiamo a casa, teniamo le risorse qua. Ecco, mi sembra che il messaggio sia miope, se quello è. Come ribaltiamo questo preconcetto culturale che andare a investire all'estero, insomma, magari forse è meglio di no? Ribaltiamolo guardando i fatti e non alle paure, per quanto legittime. I fatti dicono che flussi di export e flussi di investimento vanno insieme, per cui un paese, delle aziende che investono per la presenza diretta poi sono anche in grado di esportare meglio. Nei paesi in cui abbiamo una grande radicata presenza abbiamo risultati di esportazione fortissimi. Questo vale non solo per un paese come gli Stati Uniti, su cui abbiamo un gigantesco surplus commerciale dove stiamo andando molto bene con le esportazioni, ma faccio esempio la Romania, che è un paese dove l'Italia ha investito tanto e c'è stato tante volte il riferimento alla delocalizzazione. In realtà abbiamo una performance di export molto positiva e un grosso surplus commerciale di circa 2 miliardi di euro. Questo è solo per fare un esempio di come molto spesso le paure poi siano confutate dai fatti. Riguardo ai grandi mercati, l'esperienza insegna una cosa molto semplice, che non si cresce nei grandi mercati senza investirci. è velleitario sperare di essere un operatore importante, rilevante in un grande mercato semplicemente mettendo i prodotti in dei container e esportandoli. Questo è un dato di fatto e tutte le aziende che hanno intenzioni serie sui grandi mercati, e ripeto, non vale solo per gli Stati Uniti, ma vale per la Cina, vale per la Russia, vale per qualunque grande area economica, bisogna avere il coraggio di investire, creare un team di manager locali, conoscere il paese. L'investimento non è solo finanziario, anche manageriale, anche attenzione e tempo dell'azionista e del management. Ecco, le 41 aziende che arrivano, devo dire, mi ha colpito la, come dire, la struttura organizzativa di questa cosa. Interviene il presidente, arrivano in tutte le regioni, agevolazioni fiscali di uno Stato contro un altro Stato. Da noi sarebbe possibile? Cioè, noi possiamo avere, che ne so, l'Emilia Romagna che dice noi diamo una riduzione fiscale a chi viene da noi, più un incentivo, più delle agevolazioni di investimento che sono più vantaggiose rispetto a chi per esempio vuole insediarsi, non so, in Piemonte oppure in Sicilia o viceversa. L'Europa concede questi elementi competitivi di cui si avvalgono gli Stati americani? Beh, devo dire che comunque ci sta anche a livello europeo una concorrenza tra regioni o macroregioni. A livello italiano questo meccanismo è appena iniziato, ma devo dire che si vedono regioni decisamente più attive nel dare assistenza e supporto, e la concorrenza in Italia però, più che usando la leva fiscale, perché a differenza degli stati americani, nei nostri giorni dal punto di vista fiscale hanno molti meno margini di manovra, lo si fa attraverso una capacità di operare a livello locale in maniera rapida, incisiva, con i permessi, con le autorizzazioni e con il superamento dei tanti vincoli che un operatore italiano e non si trova ad affrontare in un paese come l'Italia. Ecco, io la settimana scorsa ho avuto come ospite un imprenditore italiano che fa il 60% del suo fatturato negli Stati Uniti, ha investito, ci sono 45 persone che lavorano qui, è piccolo, comunque fa un fatturato di 20 milioni di euro. Ecco, qual è il consiglio che lei dà a un'azienda italiana che magari oggi è un po' intimidita? Anche queste 41 che arrivano, che consiglio dà a queste aziende per venire in America, che magari non ci sono? Innanzitutto il consiglio è: ci vuole coraggio. Noi abbiamo investimenti nei posti più lontani, dal Tennessee al Michigan, all'Arkansas, alla Virginia, quindi gli Stati Uniti sono un gigantesco mercato, bisogna avere il coraggio di guardarlo nelle sue accezioni e specificità territoriali. Il secondo consiglio è assolutamente non farsi intimidire né dalla distanza, dalla complessità del mercato, e appoggiarsi alle istituzioni. I nostri uffici ICE, che sono a Chicago, a Miami, a New York e a Los Angeles, sono lì per le aziende italiane, e alcuni di questi investimenti sono avvenuti per esempio come conseguenza di dei roadshow che abbiamo fatto noi insieme a Select USA. L'accordo di cui abbiamo parlato è un accordo che permette a noi di appoggiarci a loro e a Select USA di appoggiarsi alle aziende italiane per l'accompagnamento all'estero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, la frontiera c'è, ne parliamo ogni giorno, forse ne parliamo ad nauseam. A questo punto c'è un esperimento a Washington per portare queste aziende italiane al di là di questa frontiera americana. E dunque mi sembrava molto opportuno farvi ascoltare di Neil Diamond, Coming to America. Free, only one would be free. We huddle close, hang on to a dream. On the boats and on the planes, be coming to America. Never looking back again. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.